Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, come promesso oggi è il giorno dei pulcini. Dei 211.000 bambini, mica pochi, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, tesserati per la FIGC settore giovanile e scolastico. Perché? Ma perché da quest'anno i pulcini le partite se le arbitrano da sé. Così ha deciso la Chioccia, Gianni Rivera, presidente del settore giovanile e scolastico. Buongiorno, prodigio. Buongiorno, ciao, buongiorno. Va? Scusate se lo chiamo così, sì, ma questo bene, è... Piace scherzare, non dovreste sapere tutti. Questo è un soprannome che gli affibbiarono a 15 anni quando lo videro in quel provino di Linate per il Milan, tra in mezzo a gente che si chiamava Schiaffino e Lidl, tanto per dare un'idea. Vabbè, come signor Rivera, non più prodigio, come vi è venuta, come ti è o vi è venuta l'idea di questa autogestione arbitrale per i bambini 8-10 anni? Ma questa è una cosa che è nata, non l'ho inventata io, l'hanno studiato un po' i responsabili regionali, i coordinatori regionali. Sì. Alcuni di loro hanno cominciato a pensare di ovviare a tutte quelle che erano le negatività che si notavano già nei ragazzini, di inventarsi un sistema per responsabilizzarli in modo importante e definitivo, coinvolgendo un poco anche i genitori, per dire la verità, su queste cose. Però l'autoarbitraggio è stata una cosa che poi ha finito per convincere tutti che poteva funzionare, per dare un contributo in quel senso, e quindi la cosa ha preso piede, per cui l'abbiamo sposata come causa, che mi sembra una cosa positiva. È certo che è una cosa positiva, come tutte, secondo me, perlomeno, come tutte le cose che si proiettano nel futuro ma che arrivano dal passato, perché in fondo, Gianni, tu sei stato appunto un prodigio del calcio, noi, cioè io e chissà quanti altri milioni di persone lo siamo stati un po' meno, ma tutti noi abbiamo giocato a pallone, e le origini quali sono? Sono quelle in cui, che sia 2 contro 2 o 11 contro 11, le partite te le arbitri. Facevamo tutto da soli. È vero? È vero, è vero. L'autogestione. Quindi, da quei tempi, se siamo cresciuti così noi, possono crescere anche i ragazzi di oggi. Anzi, forse si rilasseranno di più e si responsabilizzeranno, che è un po' il vero scopo. Che è un po' un obiettivo. Oggi c'è una bella pagina della Gazzetta dello Sport dedicata a questa iniziativa. Io l'ho scoperta, per la verità, domenica dalla stampa. La stampa ha fatto un servizio completo interpellando, oltre a una psicologa di vaglia come Maria Rita Parsi, anche un arbitro internazionale come Rizzoli. Rizzoli, facendo un po' di storia, ricorda che nell'Ottocento erano i capitani delle due squadre a dirimere le controversie. Certo, e quindi... D'altra parte, quando non c'era ancora il terzo... bisognava organizzarci fra le due componenti, quindi questa cosa qui se andava bene in partenza la si può far andare bene anche adesso, insomma. Certamente sì. Nelle regioni, perché ho letto che ci sono, e poi tu stesso ce l'hai detto, che ci sono delle regioni che hanno cominciato prima da un punto di vista sperimentale, che riscontri avete voi dal punto di vista ambientale? La cosa ha preso piede proprio per questa ragione, perché ha funzionato, perché le risposte sono state positive, e quindi tutto questo poi è stato possibile nazionalizzarlo, diciamo così. Senti, ma funziona questa formula anche nei confronti dei genitori, che poi sono, no, detto tra noi, tu sei genitore? Sì, no, adesso non abbiamo riscontri ancora precisi, perché poi la cosa comincerà adesso a livello nazionale. Sì, ma... sì. Ma direi che la cosa può essere accettata anche dai genitori, sapendo che qualcuno dei loro figli è là a prendersi una responsabilità così grossa, magari si rendono conto che la situazione va gestita in un modo diverso, insomma. Poi certo, nella testa dei genitori non possiamo purtroppo entrare. Cioè, io lo dico soltanto perché penso che l'autoresponsabilizzazione dei bambini, ci possiamo anche mettere la mano sul fuoco, l'autoresponsabilizzazione dei grandi forse è un poco più complicato. È quella la criticità. Senti, una critica possibile potrebbe essere quella di Come dire, è vero che se i bambini si auto-arbitrano, crescono dal punto di vista della responsabilità, del fair play, eccetera, però è anche vero che sparisce un po' per loro, perlomeno c'è una sospensiva, 8-10 anni, della figura dell'autorità esterna, terza, dell'arbitro. Avete pensato a questo risvolto? No, questo non è un problema, anche perché vale per i più piccoli, poi è chiaro che man mano che salgono di categoria avranno a che fare direttamente con l'arbitro, quindi non credo che sia, non è un problema, perché è certo che se uno fino ai 16-18 anni fa da solo, poi si trova l'arbitro a 18 anni, la cosa è complicata, però vogliamo la responsabilizzazione, ma devono sapere che prima o poi l'arbitro lo troverà. Certo, esatto. Senti, e lo trovano già dai 10-12 anni, oppure, cioè con gli esordienti, oppure state... Ma è chiaro che subito dopo, quando cominciano praticamente i campionati un pochino più significativi anche a livello giovanile, è giusto che ci sia un rapporto con l'arbitro, anche perché poi a strada facendo abbiamo intenzione di creare un rapporto anche più significativo con la categoria arbitrale, facendo arbitrare, allenare gli arbitri con i giocatori, facendoli giocare, insomma stiamo cercando insieme alla categoria arbitrale, di trovare anche il modo per far capire agli arbitri la difficoltà di fare il calciatore, ma soprattutto ai calciatori la difficoltà di fare l'arbitro. E quindi se riusciamo magari a fargli passare qualche giornata d'allenamento insieme, possono condividere un percorso. Certo, qualcosa che serve a interagire. Senti, so che sono mondi diversi che non si toccano, come è normale che sia, tra professionisti, dilettanti, bambini addirittura, ma sembra ricogliere, dopo quello sfacelo del Sudafrica di un anno e qualcosa fa, sembra ricogliere qualche segnale nuovo che arriva sia dalla squadra nazionale maggiore che da iniziative come la vostra, o in realtà sono casualità soltanto? Ma una parte di casualità c'è sicuramente, poi mi sembra che anche la scelta che ha cominciato a fare Prandelli, magari rischiando un pochino di più di altri, a puntare soprattutto sulla qualità, sta ottenendo anche i risultati giusti. Magari adesso punta su di una qualità dove non c'è un gran numero di qualità su cui puntare, sì. Però quella che sta scegliendo sta dando i buoni risultati, e quindi questa dovrebbe essere la filosofia giusta di chi organizza il gioco del calcio. Bisogna puntare più sulla qualità che sulla quantità. La quantità è autonoma, può andare in qualsiasi parte dell'Italia e del mondo a divertirsi chiunque, ma chi deve fare lo spettacolo lo deve fare sul piano della qualità, non certo, della quantità. Certo. Gianni, se tu sei d'accordo, io adesso devo fare un intervallo tecnico per pagarti lo stipendio. Sì, anche contribuisce, può servire anche a questo, caro prodigio. Certo. Ogni volta che sento parlare Rivera, scrive Gilberto da Trento, mi chiedo perché al vertice delle istituzioni sportive siedano sempre le stesse persone da 30 anni, perché Rivera è ancora giovane, no? Gianni, mi pare. È questa, quindi maturare, fare il suo corso, il suo norum, no cursus. Sono abbastanza maturo. Bravissimo, con calma, e poi arriverà certamente il momento suo, di Zoff, insomma di queste persone mediocri, no? Che hanno contato così poco nel calcio italiano. Allora, come promesso, un ascoltatore campione, poi vediamo se ce ne sta un altro per Gianni Rivera, più o meno su questa tematica dell'arbitraggio fai da te. Michele da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie. Dica. Buongiorno Presidente. Io sono direttore della categoria direttamente interessata, il giovine 1 in pratica. Sì. E nelle riunioni della federazione sono state fuori alcune domande. Lei ne ha già accennato una del signor Gaventini. Sì. Il fatto della responsabilità, noi non abbiamo grossissimi problemi, a parte qualche episodio singolo, con i genitori o con qualche problematica riguardo ai bambini in questi anni. Li abbiamo successivamente con gli anni più in là. Certo. E quindi lo trovo anzi quasi contrario a questa cosa, perché comunque, seconda domanda, va a sparire la figura dell'arbitro, che comunque è un tornaconto per i bambini quando si troveranno ad affrontare altre problematiche più avanti, cioè il lavoro e quant'altro, cioè da andare contro una persona che ha delle decisioni da mettere in campo. Ecco, queste sono domande. No, ma è abbastanza chiaro, a parte l'audio che non era perfetto. Io la giro subito. Infatti, si sentiva così male. Io la giro subito a Gianni Rivera, infatti. Credo che sia questo. La figura dell'autorità, il dover rendere conto a qualcuno, Gianni, prima o poi arriverà. E quindi perché posporla, più o meno, mi sembra di aver capito. Ma io penso che sia una questione. Ognuno è chiaro che ha la sua valutazione personale, il fatto che si sappia che esiste l'arbitro lo sanno i bambini anche appena nati, quindi non è un problema farlo sapere. Il nostro desiderio è questo, di fare capire proprio la difficoltà che ha un arbitro nel prendere una decisione nel giro di pochi secondi, e doverla prendere magari contro il desiderio o la volontà di tutti gli altri. E quindi uno, se sa che l'arbitro quando lo fa con la giusta difficoltà personale, lo può capire meglio se l'arbitro sbaglia. C'è dubbio. Credo che sia un modo per responsabilizzare, l'ho detto all'inizio, era proprio questo lo spirito. Certo. Non pensiamo affatto di togliere gli arbitri, perché senza la figura dell'arbitro è impossibile organizzare una partita di calcio. A quel livello, se si responsabilizzano i ragazzini, tanto più che la categoria arbitrale è d'accordo proprio perché sa che può essere utile per un domani per avere il giusto rapporto fra gli uni e gli altri. Non solo, ma io penso anche che l'autoresponsabilizzazione in età così, così infantile sia invece un segnale positivo. Aggiungerei anche un fatto che tu hai sottolineato, non so quante volte ormai, lo ripeteva sempre fino alla noia il tuo predecessore e comune amico Massimo Giacomini, e cioè che quella 8-10 anni è la fascia ludica, cioè lì bisogna giocare e divertirsi. Bisogna solo divertirsi, tant'è vero che io ho buttato là anche, non so se sarà possibile, credo che non sia possibile perché tutti i campi sono già segnati, per i bambini di quell'età io toglierei le righe del campo e li farei giocare in un prato senza righe e che scelgano da soli in che ruolo andare a giocare. Certo, come si faceva davvero un tempo, miglior futuro pescando dal meglio del passato. Dai, ancora uno. In qualche caso è bene prendere dal passato, certo. Non tutto, no. Ma se peschi dal passato hai la fortuna e il merito di poter selezionare il meglio. Certo. Prendere solo quello che ti conviene. Certo, se poi invece vogliamo pigliare il presente, liberi tutti, per carità. Cesare, ancora uno, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono presidente di una società sportiva giovanile da 35 anni. Sì. E abbiamo qualcosa come 200 ragazzini che giocano. Io appoggio pienamente questa iniziativa, però io volevo sottolineare questo. Il bambino l'autorità la deve sentire, ma la deve sentire, c'è l'autorità dell'allenatore che deve essere un educatore a quell'età, assolutamente, cioè il controllo delle società sportive deve essere tale che l'allenatore dei bambini deve essere soprattutto prima un educatore, non come troviamo in tanti campi degli istigatori, dei fanatici eccetera. Questa è la cosa importante e secondo me la federazione deve controllare questo, intervenire su questi punti, perché l'educatore e l'allenatore a quell'età deve essere, noi cerchiamo che sia fino a 20 anni sia l'educatore, però purtroppo sì. Parte un oratorio, per cui questo è il nostro principio. Cesare, accontentiamoci che lo siano in fasce anche di età inferiori, ma Gianni, credo che su questo siamo d'accordo tutti. No, ma noi abbiamo proprio istituito un nuovo corso allenatori, per indicarlo tecnicamente si chiama UEFA C, giusto per definirlo come categoria di allenatori, abbiamo individuato un percorso per cui l'allenatore di quel livello deve essere un maestro più che un allenatore, maestro di calcio ma anche maestro di vita, perché siamo sicuri che piano piano la gente che si avvicina al calcio, genitori compresi, debbano sapere che non tutti quelli che cominciano a giocare a calcio arrivano alla Serie A, anzi sono pochissimi quelli che arrivano. Allora il maestro di calcio che insegna la tecnica individuale, i fondamentali, lavora molto in quel senso e sul piano anche educativo gli insegna anche a essere dei bravi cittadini, quindi se non costruiremo tanti bravi calciatori, almeno dei buoni cittadini che la società ne ha tanto bisogno. Certo, e forse sarebbe poi pure meglio, detto è una cosa alla quale abbiamo pensato. L'educazione civica attraverso l'educazione sportiva, questo è un obiettivo a cui una società civile deve tendere. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie a Gianni Rivera per questo intervento sulla novità di quest'anno che riguarda, che non è una novità assoluta, intendiamoci, mi ha scritto orgogliosamente un messaggio un rappresentante del settore giovanile scolastico marchigiano. Allora, i primi esperimenti, mi ricorda, i primi esperimenti di autoarbitraggio in quella categoria risalgono addirittura a 2000. Ma infatti Rivera ha ricordato che per esempio proprio Piemonte, Puglia, Marche, Lazio, Basilicata sono state le regioni che hanno ispirato alla federazione centrale, che hanno ispirato a farla quella che era una prassi magari non consolidata in alcune parti d'Italia, di farla invece diventare la norma nazionale, per provare a sperimentare se nella fascia 8-10 anni si migliorano le cose o se invece questo sarà un esperimento che non darà frutti positivi. Sulla carta si presenta bene, poi evidentemente staremo a vedere. Chiuderei questa prima parte di trasmissione, aspettando poi nella seconda i vostri interventi. Uno è già in linea, forse ce la faccio a mandarlo in onda. Per chiudere un pochino il cerchio, volevo sentire, ne ha parlato di Prandelli, ne ha parlato Rivera, la nuova nazionale, il nuovo spirito, sentiamo questa Italia ritrovata nelle parole del vicepresidente federale Albertini. Questo è lo sport, è la bellezza dello sport, va tutto meritato sul campo. Nel 2006 ci siamo meritati di vincere il mondiale, nel 2010 forse ci siamo meritati di uscire con un po' di sfortuna, soprattutto per gli infortuni. Oggi ci godiamo questa qualificazione. Devo dire che però l'Italia, quando partecipa alle competizioni, deve puntare al massimo, non può pensare di accontentarsi e fare solo bella figura, deve puntare a vincere. Sappiamo che vince uno solo, però l'obiettivo di questa squadra deve essere quello. Iniziativa di Rivera, che poi non è di Rivera, ma insomma del settore giovanile scolastico, scrive Simone, mi ricorda la pallastrada di Stefano Benni, viva la compagnia dei Celestini, sempre viva, su questo non c'è dubbio. Stefano in linea da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo raccontare un episodio di cui non sono stato testimone, ma non ho dubbi su chi me l'ha raccontato. È avvenuto a Torino tra due squadre di ragazzini. Premettendo che i ragazzini di 7, 8, 9 anni, quando giocano non c'è niente in palio, assolutamente, anzi entrano in campo insieme le due squadre, fanno riscaldamento, proprio per aggregare le due squadre a livello di amicizia. I tempi durano 10 minuti per tempo, sì. palla a centro, 2 minuti di gioco, fallo tra due ragazzini. I genitori di uno hanno intraccato contro il ragazzino, gli altri genitori si sono arrabbiati, è successo parapiglia, che l'arbitro ha sospeso la partita per in pratica non si poteva più continuare sotto questo, certo, questo clima, che i due allenatori delle squadre hanno preso tutti i ragazzini, li hanno portati a centrocampo e hanno fatto applaudire con un bel applauso ironico verso gli spalti per ringraziare così il comportamento dei propri genitori e per il contributo che avevano dato. Stefano, tanti anni fa Vendrame, che è un genio pazzo del calcio che ho ricordato anche ieri e che un giorno o l'altro magari verrà a deliziarci con i suoi ricordi, Vendrame si era dato ad un certo punto in età molto matura alla guida tecnica, cioè aveva vinto anche dei campionati, fascia leggermente più alti, no, non parliamo di bambini di 8-10 anni, settore giovanile che funzionava come un orologio, e niente, per episodi ricorrenti come quello che lei ha ricordato, ovviamente in età un pochino più alta, un po' più avanzata, ha deciso che da lì in avanti avrebbe allenato solo squadre di orfani e si è ritirato lasciando perdere. L'Irlanda di Trapattoni ha pescato l'Estonia e quindi è stata, direi, la squadra più fortunata nel sorteggio per gli eurospareggi in vista dei campionati europei della prossima stagione. È uscito un match clou che è Bosnia-Portogallo, in quanto era una tra le favorite della vigilia, invece è arrivata seconda soltanto nel girone battuto dalla Danimarca. La Bosnia, perché ha giocato un brillante girone di qualificazione e soprattutto l'altra sera una grande partita allo Stade de France, in cui avrebbe certamente meritato di più contro i francesi. Turchia, Croazia, Estonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Montenegro, Bosnia, Portogallo. Questo è l'esito dei sorteggi. E poi c'è una notizia che arriva da Barcellona. Il Barcellona starebbe pensando per il futuro della propria porta, quindi per il futuro, per succedere un giorno o l'altro a Victor Valdés, starebbe pensando anche a Nicola Leali, il 18enne portiere del Brescia, squadra che sta sfornando signori portieri giovani in continuazione, perché dopo Viviano adesso tocca per l'appunto a Nicola Leali. Però mi pare che oggi, lo giudico dai messaggi che stanno arrivando, l'argomento sia davvero quello con cui abbiamo iniziato e poi continuato questo appuntamento. Mio figlio ha 6 anni, scrive Stefano, ha iniziato a giocare da un mese, ieri è tornato a casa chiedendomi lumi sul pressing. Mi sa che lo porto a nuoto, questa non è male davvero. Vietare l'accesso ai genitori sarebbe la soluzione migliore per i nostri figli, scrive Marco da Bologna. Sono argomenti che ricorrono un tantino, senza arrivare ad Andrea che da Pinerolo, ricordo a distanza di 20 anni, scrive: ricordo ancora le parole del mio allenatore quando arbitrava lui le nostre partite di campionato, Pulcini, e il suo ordine era di una volta in area di buttarsi. Che tristezza, lo so, i cattivi maestri ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Luciano ha chiamato dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. E ora, due cosette, sono rimasto molto contento di sentire Gianni Rivera, che era un nostro idolo, perché tutti, come ha detto lei, che si giocava il pallone una volta, io forse ero uno dei pochi che non avevo le scarpe chiodate, giocavo con le scarpe da tennis, però ci ha fatto i nostri capocannonieri, insomma, abbiamo fatto i nostri risultati. E mi avevano chiamato, detto se volevo prendere in carico una squadra di 1000 esperti, che è squadra di ragazzini, diciamo, sì, di un vivaio. Sì. Erano 70 ragazzini. Io non l'ho presa perché avevo chiesto anche un ex, diciamo, collega di calcio che era bravissimo, di venire a allenarla, divertendoci come una volta. E ecco, Vendrame poteva venire a allenare quella squadra lì, perché purtroppo è una frazione di 500 abitanti con 70 ragazzini, e i genitori non erano mai presenti perché lavoravano tutti. Bella comunità, ecco, quello sarebbe stato il posto di Vendrame. Il giorno che lo risento provo a segnalargli. 1000 Perti, che ha detto, si chiama questa località. 1000 Pertiche, ma solo 70 in compenso i ragazzini, e soprattutto nessun genitore presente. Situazione ideale in linea di massima. In linea di massimo, provincia di Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, niente, io penso di essere una voce un po' fuori dal coro per quanto riguarda l'arbitraggio, nel senso che io alleno praticamente i bambini del mio paese, che sono del 2002. Sì. E dalle prime esperienze di queste due giornate di campionato, non le abbiamo fatte tanto, abbiamo fatto due giornate di campionato, ho notato che purtroppo i bambini a questa età non possono essere responsabilizzati. E secondo me l'idea è buona se viene fatta per diciamo l'ultimo anno dei Pulcini e il primo anno di esordienti, allora lì cominciano a essere più responsabili e tutto va bene. Invece, facendolo, diciamo, anche con i bambini parliamo di 8 e 9 anni, ho notato che il più scaltro dei bambini alla fine ha sempre ragione, perché se non c'è un arbitro in campo, quando la palla esce, anche se l'ha tirata lui con noi vicini, presenti lì vicini, dice che lui non l'ha toccata, che quando c'è il fallo lui dice che non l'ha mandato di mano, se c'è da spingere e quegli altri spingono, e purtroppo quelli che non sono, diciamo tra virgolette, scaltri, subiscono e basta, l'arbitro non essendoci non fischia. Però sta a voi. Massimo, però, no, infatti no, sono d'accordissimo, infatti noi poi da fuori logicamente cerchiamo di fermiamo, alzo un attimo, vediamo eccetera, certo. Anche perché sinceramente in queste prime due giornate cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di mettere in campo comunque una persona che deve solo guardare, e proprio nel caso estremo fischia, perché succede anche che praticamente sì, un bambino si ferma perché è convinto che c'è il fallo, l'altro invece che ha subito il fallo va avanti e fa il gol e succede che cosa si fa? Insomma, queste cose sono, è vero che non c'entra il punteggio, è ininfluente, quindi sì, si fa per far imparare diciamo come si gioca a calcio eccetera eccetera, però notiamo che senza uno che dirige, soprattutto ripeto, io sto parlando di 8 e 9 anni, sì, quindi, sì. 2001-2002, cioè effettivamente in campo c'è una differenza abissale di carattere, di proprio... ma questo non c'è dubbio, ma a qualsiasi età, in qualsiasi comunità c'è sempre il più furbo, c'è sempre il più prepotente, c'è sempre quello più strutturato, no? Che ti guarda dall'alto in basso, anche se lì è un alto in basso relativo a quell'età, però poi evidentemente ci siete, tanto lei ha parlato di un'esperienza di due giornate, può darsi che andando avanti le cose migliori, non può darsi appunto che a fine, non dico partita perché poi non è nemmeno una partita, ma insomma alla fine della giornata il furbetto, no? del campettino possa anche essere preso da voi o da uno di voi e dice guarda che oggi tu hai fatto così e così, non va tanto bene perché abbiamo detto che vi arbitrate da voi, e quindi sono tematiche molto lievi, no? Mi rendo conto, c'è qualcuno che scrive che vorrebbe sapere del rientro di Samuel Eto'o. Io, dato che ci stiamo un po' disintossicando rispetto alle buffonate del calcio di tutti i giorni, insomma, io resterei su questi argomenti. Però, per una volta che si è lievi, proviamo ad approfondire. Lei ha ragione, cioè a essere anche perplesso, no? su questa iniziativa. Però io credo che prima vada provata davvero, o comunque che ci si possa provare ad investire, poi si fa sempre il tempo a tornare indietro. Abbiamo provato nelle prime due partite, scrive Roberto D'Aleco, guardi, scrive la stessa cosa che ha scritto lei, secondo me ci vuole una figura di riferimento, di autorità, e avrei pensato a una figura di bambino di pari età che facesse l'arbitro, ma non so se questa per la verità è una buonissima soluzione, perché torniamo comunque, torneremo indietro e magari invece poi si scoprirà che è un andare avanti. Carlo, in linea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io, guardi, ho un bimbo che è 3 anni che gioca, 7 anni e mezzo, non è ancora dei pulcini, che presumo che l'anno prossimo, se la cosa andrà avanti, lo riguarderà. Però se posso dare un'opinione sull'argomento, io penso che la cosa fondamentale sia il ruolo dei genitori in una situazione del genere, perché io assisto a delle situazioni veramente imbarazzanti, in quanto ci sono genitori addirittura che litigano su come giocano i bambini di quell'età lì, che devono assolutamente divertirsi. La cosa è fondamentale, bisogna che chiunque vada ad assistere dei bambini, parlo di genitori come me, deve mettersi la mano sul cuore e capire anche e soprattutto che la cosa deve maturarli. Può essere una buona idea questa di autogestirsi per farli crescere, penso però che vada veramente seguita soprattutto da noi, ecco. Certo, ma non c'è dubbio. Il problema è quello, Carlo, ed è un problema da tantissimi anni. Io ho fatto un'esperienza ormai risalente a qualche anno fa di esperienza non professionale, un'esperienza da spettatore di calcio giovanile, e ho giurato a me stesso che non sarei mai più entrato per il resto dei miei giorni, non sarei mai più entrato in un posto del genere, perché l'istinto omicida che mi è nato nei confronti dei genitori l'ho tenuto a stento, ma sotto controllo, ma davvero per puro miracolo, e non c'entravo nulla né con i genitori né con alcuno dei bambini presenti, era una visita di cortesia, ma è veramente qualcosa di infrequentabile e insopportabile, quindi la capisco davvero bene. Giovanni Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per tutto. Senta, io lo chiamavo per questo, io ho un figlio che ha 10 anni, quindi è proprio dentro, è un pulcino del 2001, è a Milano. E il senso è questo, cioè io sono sia un genitore e in più questa figura da dirigente, che è una parola grossissima con tanta responsabilità e basta. E il discorso dell'autoarbitraggio, noi siamo sia la seconda e mi è capitato già di arbitrare la prima. ma non è tanto il fattore di quest'anno, è proprio tutto quello che circonda i bambini. Cioè noi parliamo sempre, noi genitori diciamo sempre, è colpa dei genitori perché li istigano, perché gli parlano, perché poi alla fine parte tutto da noi. L'autoarbitraggio secondo me sarebbe una gran bella cosa, però purtroppo quello che accade attorno, cioè fuori, nonostante io ad esempio sia dentro a cercare di recuperare solo quello che realmente ne vale la pena, cioè sì, se il bambino fa il fallo da dietro o cerca di fare lo scaltro, io richiamo e dico: senti, scusa, guarda che è sbagliato, certo, cerca di non farlo più e richiamo fuori. Però parte anche dagli stessi allenatori. Cioè, un esempio pratico, sabato un allenatore... Me lo faccia dopo, che dobbiamo dare abbia pazienza per rispettare le cadenze, gli aggiornamenti del traffico. Allora, torniamo molto brevemente però, Giovanni, in sua compagnia, per questo aneddoto di sabato, mi scusi. Sì, no, per esempio sabato un allenatore di un'altra squadra, ad esempio, oltre ad inveire contro i suoi bambini, che poi tra l'altro sono bambini di 10 anni, non sapeva neanche le regole, quindi capisce che diventa anche difficile far sì che si gestiscano da sole quando poi c'è qualcuno che non sa neanche le regole. Giovanni, non conoscono le regole alla Camera, al Senato, non conoscono le regole quelli che ci governano, vuole che le conosca un allenatore di bambini. Io non la farei più grande di quella che è, certo, dato che a loro sono affidate le nostre creature, effettivamente se diventiamo un po' più selettivi tutti, no? Nei confronti delle persone a cui questi bambini vengono affidati, ovviamente abbiamo da guadagnarne tutti insieme. Nicola Filippone, il 13 di ottobre. Sembra ieri. 13 ottobre 1974. C'è curiosità attorno all'esordio in campionato con la maglia del Milan di Egidio Calloni, attaccante di belle speranze che l'anno precedente aveva trascinato il Varese in Serie A vincendo la classifica marcatori. L'occasione è una gara in casa della Juve valida per la seconda giornata e vinta 2-1 dai bianconeri, che quell'anno avrebbero conquistato lo scudetto. Nella sua prima stagione Calloni non sfigura, andando a segno 11 volte. L'anno successivo migliorerà ulteriormente con 13 reti. Ma passerà alla storia soprattutto per essere un divoratore di gol fatti. Peculiarità per cui Brera lo immortalerà come sciagurato Egidio. E Beppe Viola arriverà a commentare un suo errore con l'espressione «sventa la minaccia». Dopo altre due stagioni meno prolifiche, Calloni lascerà definitivamente il Milan e proseguirà la sua onesta carriera a Verona, Perugia, Palermo, dove si vendicherà del Milan con una tripletta in Coppa Italia, e infine Como. Egidio Calloni, un giorno o l'altro potremmo anche pensare di ripescarlo, di andare a cercare così per ripercorrere un pochino quegli anni. Il 13 ottobre mi segnala sempre Nicola Filippone che è anche il compleanno di Raymond Coppa, che è stato un grande, 80 anni di Raymond Coppa, un grande degli anni 50, prima nel Reims, che è stata una grande squadra davvero di quell'epoca e a cui solo il Real Madrid impedì di vincere da una Coppa dei Campioni in su, e il Real Madrid che ne vinse 5 di fila grazie anche, le prime due, alla presenza all'ala destra e non solo di Raymond Coppa. Oggi è anche il compleanno di Natale, che fa 34 anni e che adesso sentiamo insieme in questo breve servizio. No, il mio compleanno è di arrivare tra dette 40 punti, perché è un campionato strano questo. E poi tra dette di arrivare un traguardo di 150 gol in Serie A, perché supero tanti campioni. A mio rete, no, beh, Gervinho è un grandissimo giocatore, ha dimostrato già tanti anni. Ma secondo me Fabbrini è quello che piano piano cercherà di arrivare a quello che ho fatto io. Dell'Empoli è un ragazzo che l'ho seguito tanti anni. Con la società l'avevo portato qui a Udine a cercare di fare il mio traguardo. Totò di Natale, ha chiamato Orlando da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Vorrei intervenire sulla questione, ad esempio, dei genitori sì, genitori no, come affrontare questa questione. Io credo che ci sia, non una forzatura, ma sono cose, io sono brasiliano, quindi io queste cose non ho mai visto, cioè questi tipi di problemi, porsi il problema, cioè dell'atteggiamento che il bambino possa avere o meno, oppure dei genitori, cioè qui secondo me si carica molto su queste cose qua, alla fine il bambino sono il riflesso di quelli che sono i suoi genitori, cioè. Questo è un problema, come dicono a, a Rio de Janeiro. È un po' triste, secondo me, perché cioè, si parla di bambini di 9-10 anni. Io faccio fatica, io vengo da Rio, io queste cose qua mai visto. Lo credo, lo credo. Si scannano oppure litigano perché il bambino ha fatto un fallo, oppure che insegnano un bambino a buttarsi. È curioso perché non appartiene alla mia cultura calcistica. Io vedo questa cosa in Italia lavorando nell'ambito calcistico, queste cose. Orlando lo credo che per voi che al calcio vi accostate in tutt'altra maniera e soprattutto non da orfani in senso proprio tecnico, intendiamoci, ma da orfani nel senso che si diceva prima, e cioè come si usava anche ai tempi nostri, se per quello mai visti i genitori a bordo campo a scovare o a vegliare le galline alle uova d'oro nel modo più assoluto. Oggi, ma non oggi, da tantissimi anni invece in Italia è così, ed è peggio ancora negli sport individuali. Non le dico cosa succede nel tennis, cosa succede in specialità in cui, cioè, in linea di massima si è galline ancora più promettenti che non nel calcio, dove le probabilità di fare strada sono percentualmente davvero minime, di fare strada fino alle uova d'oro, intendiamoci, che è quello che la maggior parte dei genitori ha in mente in quei momenti. Dunque, ho qua anche ancora un sacco di mail, di messaggi arrivati su questo argomento. Mauro Miatello scrive: ho sentito di questa novità, ho allenato in categoria per 5 anni, categoria Pulcini, e avevo proposto più volte alle società di fare arbitrare almeno i Pulcini ad atleti della stessa società di categoria allievi, sempre bocciate. Adesso arriva questa novità assoluta che a me piace, anche se la vedo difficile da praticare, ma insomma le criticità le abbiamo già rilevate e poi anche direi in parte approfondite con Rivera. Adesso vediamo poi che frutti daranno. Ripeto, è un argomento lieve, non dipende da questo il futuro del calcio e neanche di questi ragazzini, soltanto l'idea di creare un habitat migliore, di provare a vedere se si riescono a crescere degli sportivi praticanti, ma anche poi degli spettatori futuri possibilmente un po' più maturi, un po' più civili, un po' più responsabili di quelli che abbiamo prodotto sino a questo momento. Gli arbitri a proposito di arbitraggi, in Serie A non vige l'alto arbitraggio, sicché toccherà a Tagliavento, per esempio, dirigere Lazio-Roma, che è un po' la partita clou di questa giornata, che sarà il posticipo domenicale serale. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti.